della furosemide, dell'Asix o di farmaci di questo tipo. Piante come la betulla, la bergadoro, anche in tisana, quindi in formulazioni galeniche che sono molto soft, non sono pericolose. Le piante, le nostre, ripeto, autoctone indigene come la betulla, la bergadoro, l'equiseto, senza ricorrere ai farmaci, sono delle tisane che possono aiutare a regolare il flusso, il quantitativo di acqua corporeo, senza dare un particolare stimolo all'organismo. Sono piante sicure, studiate molto in Europa anche dal punto di vista occidentale, che la Food and Drug Administration, la FDA americana, considera assolutamente sicure. Ripeto, in formulazione tipo tisana, che è una formulazione molto soft, che ha il vantaggio quindi di non essere particolarmente aggressiva, forte, particolarmente aggressiva, ed inoltre è anche un modo che ha un soggetto per prendersi cura di noi stessi. Quello ci piace, dottor Corradin. Grazie, dottor Gasbarrini. Grazie anche a lei, dottor Corradin. Ma adesso, prima di chiudere, volevo salutare Anna Maria Cova, fisioterapista, fondatrice della Covatech Pilates School. Con lei, consigli per piedi stanchi e gonfi. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Allora, mettiamoci subito al lavoro. Molti di noi in questo momento saranno seduti alla scrivania e sentono magari i piedi brontolare. Eh sì, quante volte ci siamo trovati con quelle scarpe molto belle, molto strette, molto mal di piedi. E dai piedi parte tutto il benessere della colonna vertebrale, quindi che cosa fare? Provate a togliere le scarpe, ci riuscite? Aprite bene le dita dei piedi come se fossero un ventaglio. Apro bene tutte le dita e adesso provo a tenere giù le quattro dita piccoline, che sono il quarto, il terzo, il secondo, e alzo il primo dito, l'alluce. Ci riuscite? Difficile, eh? Abbassate l'alluce, provate a tirare su le altre quattro dita. E poi di nuovo abbassate tutte e quattro le dita e aprite di nuovo le dita a ventaglio. Io ci sono riuscita e devo dire che l'esercizio mi è venuto perfettamente e trovo già subito un sollievo. Però stavo pensando che il Pilates, oltre a prevedere l'uso di speciali macchinari, molle, tiranti, utilizza anche piccoli strumenti, come ad esempio la pallina da tennis, che tenuta sotto la pianta del piede funziona un po', Anna Maria, come una specie di digitopressione, volendo, no? Certo, certo, molto spesso ci troviamo a dire che cosa potrei fare di più per questi piedi, perché a volte solo il corpo libero non è sufficiente. Allora, con la pallina che cosa possiamo fare? Proprio la pallina da tennis è comoda perché può essere portata in borsa, ovunque ci si trovi la si può utilizzare. Quindi, appoggiando per terra la pallina, si può massaggiare tutta la pianta del piede come se si volesse schiacciare la pallina. Se ci pensate, nella colonna vertebrale è riflessa la pianta del piede e viceversa. Che cosa vuol dire? Che quando io pigio la pallina vado a fare proprio un massaggio alla colonna vertebrale. Addirittura, se volete fare la prova, fatelo solo su un piede e poi controllate il viso, vedrete che i muscoli del viso, la metà che avete utilizzato, che so, il piede destro, vedrete il viso dalla parte destra più rilassato. Ma bisogna fare dei movimenti particolari o basta farla correre sotto la pianta del piede? A me piace la visualizzazione del colore della pallina che rimane impresso nella pianta del piede, quasi il giallo della pallina passasse sulla pianta del piede, quindi tutta la pianta del piede e poi in particolare nella parte centrale che va dall'alluce al tallone. Proveremo allora e torneremo a darvi consigli di Pilates insieme ad Anna Maria Cova, fisioterapista e fondatrice della Covatech Pilates School. Grazie Anna Maria per essere stata con noi. Grazie a tutti voi. Buona giornata a voi che ci avete seguito, quindi andate di pallina e noi ci sentiamo domani dopo il GR delle 11. Un saluto da Nicoletta Carbone.